24. Storie di star. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Voleva anche sfottere se stesso, rovinare delle cose sacre dentro le quali aveva paura di essere coccolato e messo definitivo. No? Un acuto osservatore del costume, ironico, raffinato, tagliente. Classe 1939, Gaber è uno dei cantautori più amati e più originali della scena musicale italiana. Un artista che non era né una star né un guru e che per tutti era semplicemente il signor G. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà, no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà tra le lauree parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli. Un artista mai banale e attento alle inquietudini della società, come ricordano lo scrittore e giornalista Edmondo Berselli, Dario Fo e l'editore Emanuele Bevilacqua. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Beh, se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione, è una, secondo me, l'espressione di quel tentativo di un intellettuale, perché poi alla fine Gaber diventa un intellettuale, non soltanto un uomo di spettacolo, per cui si manifesta la voglia di prendersi i concetti, le idee e di incorporarli dentro se stesso senza più mediazioni. Soltanto quando sei riuscito a ricomporre, a ridistruggere, a distruggere l'idea e a ritrovarla e a dargli il proprio andamento, ecco allora diventa l'opera. La rivoluzione. Ed è la rivoluzione, l'opera per noi è la rivoluzione. Mia rivoluzione. Una volta si parlava dello sconvolgimento, insomma, della fatica che poteva comportare l'arrivo di un'idea nuova. Ecco, noi non corriamo questo rischio. Non ci sono. Ma non ha nessuna importanza, perché le idee nuove nessuno te le chiede. E se nessuno, come dice Gaber, ti chiede le idee nuove, lui invece ne aveva tante. Le regalava con eleganza e con intelligenza. Le sue canzoni esplorano le nostre contraddizioni, le sue parole lasciano il segno nella coscienza. E allora, in quelle provocazioni c'è anche la storia di un'Italia che cambia e che ha voglia di capirsi. Io accuso il governo, gli intrighi, gli imbrogli, la corruzione. Io accuso la stampa, io accuso la televisione. Io accuso il mondo della canzone. Io accuso Sanremo. A proposito, se telefonano quelli del festival, digli che accetto comunque, che la canzone è già pronta. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà. Partecipa

Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo so. Ma per quanto mi riguarda, il mio linguaggio credo che sia proprio quello di intervenire nell'oggi attraverso le cose che io percepisco, che noi, perché io poi scrivo sempre con Sandro Luporini, che noi percepiamo dalla realtà che ci circonda. Ecco, quindi andare a testimoniare questo. Si può, si può, si può, siamo liberi come l'aria, si può. Si può occuparsi di agriturismo, si può fare il tifo per il buddismo, si può con un gioco televisivo, si può inventare ogni giorno un divo, si può. Passa uno spunto qualunque, la nostra fantasia non ha confini. Passa un doccio un po' scadente, noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini. Aveva letto molto, aveva interiorizzato un'idea, quella che circolava poi nella grande cultura europea di allora, nella scuola di Francoforte, fra Adorno, Horkheimer, Marcuse, per cui non sono semplicemente le cose da dire, ma il modo in cui ci si mette in relazione con le cose, non semplicemente lo scagliarsi contro qualcosa, ma il rivelare delle verità anche negative che ci sono dentro i processi della nostra società, dentro la nostra i modi collettivi nella società di massa. Scende l'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marcia mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Cioè, non è che pensava come contraddistinguermi, no, era normale. Se lui faceva una canzone, non faceva una canzone d'amore, amore, cuore, dolore, no, faceva una canzone di uno che andava in giro a rubare le lambrette, ecco. Fin qui il Gaber della protesta, della riflessione, dell'impegno civile, della provocazione intelligenti, li avete sentiti ancora Edmondo Berselli e Ombretta Colli. Prima però c'è stato un altro signor G, il Gaber disimpegnato, il Gaber del varietà televisivo del sabato sera. Ma come nasce Gaber, cantante di musica leggera? Cosa racconta della Milano del boom economico? Qual è il suo rapporto con gli artisti che emergono in quegli anni? Dario Fo, Iannacci, Colli, Tenco, Monti, Celentano e Sandro Luporini? A raccontarci di quegli anni sono proprio Sandro Luporini e Ombretta Colli. Il primo impatto è stato un bar casuale dove andava anche lui e insomma andavo anch'io. Allora me lo presentarono e c'è questo ragazzo, perché aveva 19 anni, canta e viceversa, dice lui è un pittore, quindi ci presentarono e così c'è stata una certa curiosità subito ed era un bar. Un amico di mio padre chiede a mio padre se potevo andare una mattina a fare delle foto per una copertina di un disco che doveva presentarsi a Sanremo e l'avrebbe cantato Giorgio Gaber e lì fu il nostro primo incontro. Hai inventato un nuovo gioco, mi cosparge di benzina e mi dà fuoco e io brucio. Ci rivedemmo, facemmo delle altre foto. Dopodiché Giorgio dice: andiamo a mangiare una cosa. È circa l'una, l'una e mezza. Benissimo, andiamo a mangiare questa cosa. Al momento del conto fui testimone di una scena che mi avrebbe accompagnato tutta la vita. Mio marito incominciò a cercare dentro le tasche, giacca, pantaloni, eccetera, e poi un po' impallidito e decisamente a disagio, perché anche lui era un ragazzo, mi disse: non ho il portafoglio, e pagai io. E continuò per tutta la vita, cioè mio marito non aveva la concezione del denaro. L'immagine proprio più forte, più violenta che ho avuto è stata proprio però la prima volta che sono andato a sentirlo cantare. Questo ragazzino magro come un chiodo aveva dentro, secondo me, proprio sprigionava, vedendolo, un'energia paradossale, anche se cantava in inglese non capivo niente. Ma quello che mi impressionava è questa energia che veniva fuori da questo ragazzino magrissimo, tutto rinicolato, ma era una forza micidiale. Io ho cominciato come cantante di rock and roll, quindi molto molto distante da quello che faccio ora, e quindi ho operato nella mia vita una serie di cambiamenti a vista, anche un po' faticosi, in quanto il pubblico poi mi ha dovuto riconoscere in momenti diversi. Sa che mio marito è diventato cantante perché Celentano non si alzava al mattino, e si addormentava, insomma, facevano le prove e quindi cantava mio marito, e canta oggi e canta domani. Lui che era alla Bocconi, doveva fare l'economista o il commercialista, non si sa insomma che cosa sarebbe diventato. E ha cambiato radicalmente idea. Perché con te vicino più felice sarò e tanta gioia in cuore. E quei 45 giri dalle copertine così colorate, Naif, oggi sono un cimelio prezioso in casa Gaber. Quelle canzoni Snoopy, Il Barone Rosso, Fetta di Limone, Ciao ti dirò e tante altre sono un pezzo di strada, un passato prossimo che guarda al futuro, come ricorda Edmondo Berselli. C'era forse il senso che guardatemi domani perché c'è un po' della verità di oggi. Giurami che tu ami solo me, pupa, non scherzare. Era un'Italia piena di possibilità, quella dell'inizio degli anni 60, boom economico appena alle spalle, primi soldi che circolano, il senso di possibilità nuove, diverse anche nei comportamenti. Celentano che va a Sanremo nel 61 con 24.000 baci, l'amore di fabbrica, l'amore da catena di montaggio, l'amore cronometrizzato. Mina che vuole stupire tutti con le mille bolle blu. Una specie di sberleffo rivolto al pubblico, alla tradizione, al modo di cantare di allora. E Gaber che canta. Scritta da Luigi Tenco e Giampiero Reverberi, portata al successo da Adriano Celentano, Ciao ti dirò è un rock and roll alla maniera di Elvis Presley, che Giorgio Gaber porta di fronte alle telecamere del Musichiere nella sua prima apparizione televisiva. È un motivetto semplice che non pretende di essere un capolavoro della musica, ma che racconta e racconta bene l'Italia di quegli anni. Gaber comunque, che pure si afferma con il rock and roll, invece viene dal jazz. Ama la musica colta, cerca di difendersi dalla colonizzazione americana. Ama Jacques Brel e non a caso diventa grande amico di Luigi Tenco. Per lui i primi anni 60 sono anni fertili, vissuti in gruppo, in una Milano straordinariamente vitale, allegra, piena di idee e di creatività. Una Milano che Dario Fo e Berselli vivevano così. Io e Gaber e altri, Iannacci, eravamo giovanissimi ed eravamo già conosciuti e apprezzati e potevamo permetterci di compiere tournée in Italia da soli, no? Eravamo i capocomici di noi stessi. Era una Milano con una cultura e con il piacere di poter raccontare queste, i fondamenti di questa cultura, far vedere i gufi, far vedere Dario Fo, il dialetto, una adesione alle cose, a quella Milano di Brera, alla Milano dei Navigli, alla Milano dei locali. Di colpo era tutto fiorente, era come un giardino proprio stracolmo di fiori che spuntavano, che davano profumi, che forse mia un'idea che sembra retorica, ma non lo è, era proprio così. E poi cantavamo anche in dialetto e cantavamo anche delle canzoni napoletane e cantavamo anche delle canzoni romane e via, insomma non eravamo legati soltanto al Naviglio. Andavamo, viaggiavamo. Da solo, lungo l'auto. l'autostrada. Viaggiavano, scrivevano, cantavano in dialetto. Lo avete sentito con quanta emozione Dario Fo parla di quegli anni. Una produzione artistica che soprattutto all'inizio non sempre veniva apprezzata dal pubblico. Come testimonia questa intervista in cui si raccontano Enzo Iannacci e Giorgio Gaber. Eravamo a Vigevano. Signora, non ci siamo capiti. Siamo partiti con Celentano, i primi tre pezzi, la cosa è andata abbastanza bene, se non altro per la curiosità, Celentano si muoveva, noi eravamo dietro, ma andavamo. E andando avanti, però, dopo tre pezzi gara, dopo un paio d'ore che c'era questa alternanza, la gente cominciava a non sopportarsi più. Arrivavamo già nel primo sassetto, io non mi ero accorto di dietro. Hanno cominciato a tirarsi le monetine. I Iannacci, jazzisti, quindi aristocratici, vergognosissimi, nascosti uno dietro l'altro. Però i primi che sono venuti sul palcoscenico, vicino alla commissione, ha fatto gente del Moruta, ha fatto. Porca tempo, almeno quello! Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tempo. C'erano vari punti di riferimento, come c'era il bar della Statale, che non c'era un manifesto di un concerto, non c'era nessun tipo di promozione. Tutti gli studenti milanesi sapevano che il alle c'era XY. Si andava, non potevi stare una sera tranquillo se non avevi il tuo spettacolo da realizzare. Dovevi per forza spostarti a vedere, ascoltare tutto quello che avveniva. Io ho visto tutto quello che ha fatto Gaber. Mi vuoi in gir de chiede là, mi vuoi in gir per Laura, trevi tanti biglietti de mila, ma cumpri più un'altra balila, ma cumpri più un'altra balila, ma cumpri più un'altra balila, ma cumpri più un'altra balila, ma cumpri più un'altra balila, finita. E dopo il rock and roll, la canzone popolare La Balilla, scritta da Maria Monti, interpretata anche dai Gufi, è uno dei grandi titoli della produzione dialettale di Gaber. Dal suo interesse per la periferia, dal suo amore per i tipi sghembi, nasce l'affresco tenero e irresistibile di una Milano sospesa tra la ricostruzione e la febbre del boom. Mix 24. Storie di star. Bentornati su Radio 24 con la musica e la vita di Giorgio Gaber. Siamo negli anni 50 e Gaber si afferma come un vero e proprio Spoon River meneghino sul palcoscenico dei palazzi di ringhiera, dei bar e nelle piazze. Trani a gogo, il truccamotori, la ballata del Cerruti, il Riccardo sono i capitoli di una piccola enciclopedia della vita quotidiana, dalla quale, come ci dicono Ombretta Colli, Dario Fo, Mendo e Berselli, Gaber prende spunto continuamente. Giorgio forse è stato il primo cantante in senso assoluto in Italia a cantare l'emarginazione, insomma, nessuno faceva protagonista di una canzone, neanche di uno spettacolo, un emarginato, e invece lui, questo ladruncolo che al giambellino ruba la lambretta, erano tutti personaggi esistenti che giravano per questi bar, per queste osterie, poi insomma eravamo tutti giovani, naturalmente con pochi soldi, quindi si andava in luoghi molto rustici. Credo che il Gaber più vero sia quello di non sia quello delle canzoni ironiche, né del truccamotori, né della Torpedo Blu, né. No, io penso che sia quello più vero sia quello di non arrossire, quello di Porta Romana, cioè di quella adesione alla vita quotidiana con le ragazze, con le donne, con questo diventare adulti dentro una realtà che sta trasformandosi in modo così forte, così completo, così radicale, per cui fa cambiare anche il modo in cui cambia l'amore, cambiano i rapporti fra le persone. Porta Romana bella, Porta Romana, è già passato un anno da quella sera. Un bacio dato in fretta sotto un portone, Porta Romana bella, Porta Romana. Non vivevo in Porta Romana allora, soltanto che Porta Romana è la porta di tutta Milano. E cantare di Porta Romana, bella Porta Romana, ci sono le ragazzine ma non te la danno, eccetera. Questo era che te la danno, diceva anzi. E poi tutti i giochi appresso alla trasformazione era fondamentale per noi. A metà degli anni 60 Gaber ce l'ha fatta, è un divo della televisione che al sabato sera entra nelle case di tutti gli italiani e tuttavia a Gaber questo non basta. Dentro di lui c'è una frenesia di cambiamento, la liturgia del varietà televisivo gli sta stretta e sente che è ora di cercare delle nuove strade. Tra il 69 e il 70 Gaber matura una decisione clamorosa, una decisione che all'epoca fece clamore e spiazzò tutti e che oggi Emanuele Bevilacqua e Brenta Colli spiegano così. Una scelta strana, fatta nel momento di un maggior successo, di maggiore visibilità, proprio al momento in cui certamente era una delle personalità più note. Naturalmente le decisioni non arrivano quasi mai così all'improvviso. Era un po' di tempo che diceva, però certo che è molto limitante. È una scelta intima, interessante, difficile da fare. Questo è uno dei motivi che ce lo fa amare particolarmente. Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti. Canterei le gioie ed i lutti e il mio canto sarebbe sincero, ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio. E allora suona chitarra, facci divertire. Mi sembrava che il mezzo non mi fosse particolarmente congeniale, mi vergognavo un po', mi sembrava un'esibizione un po' forzata, quindi ho cercato un'altra strada. Aveva capito quello che io ho capito dopo, che questa impossibilità di far fede a un mezzo che cercava di diminuire i valori, di schiacciarli, di renderli banali col pretesto che il pubblico televisivo è un modesto e quindi deve capire, e per fargli capire non bisogna porgli concetti alti. Tutto questo era un grande limite e Gaber l'ha capito per primo. Noi cantanti, sì, una professione un po' strana che a prima vista può sembrare anche piuttosto libera, piuttosto indipendente, anche se ha determinate limitazioni di libertà. Beh, per esempio la televisione stessa molte volte si inserisce nelle nostre canzoni con dei tagli di censura, per carità, giustissimi. Sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso. Il nostro governo opera per il bene del popolo con il consenso del popolo. Orsù, tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà! Parapà! Perepè! Perepè! Parapà, perepè! Parapà, perepè! Karl Popper parlava di una patente a quelli che fanno la televisione, della delicatezza quindi di un prodotto che potrebbe influenzare la formazione di fasce deboli e anche di fasce un po' più forti. A lui le camicie di forza erano guai. E ci fu un periodo in cui anche gli censuravano le canzoni, no? E questo lo metteva in uno stato di abbattimento, ecco. Se qualcuno dovesse decidere quello che devo ascoltare o quello che non devo ascoltare, quello che devo vedere o quello che non devo vedere, non mi farebbe affatto piacere. Se qualcuno invece dovesse decidere quello che io devo dire o quello che io non devo dire, non mi farebbe altrettanto piacere. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo. Per Gaber essere eclettici non significa essere disposti al compromesso. Anziché cambiare il suo modo di essere cantautore, decide di cambiare strada. Lasciata la facile, seducente popolarità della televisione, Gaber torna al contatto diretto con il pubblico, inventando un modo nuovo di fare spettacolo. Nasce così il teatro canzone, come raccontano lo stesso Gaber, Sandro Luporini ed Ombretta Colli. Mi sono dedicato totalmente al teatro, nel senso che mi sembra che sia il mezzo più diretto, meno inquinato, più convincente, forse più congeniale alle mie possibilità. Io sono uno dei tempi lunghi, quindi il teatro mi dà queste possibilità di entrare dentro nelle cose. Per arrivare al teatro canzone il processo è stato un po' lento, ecco, dopo 3 o 4 anni il monologo prendeva una sua autonomia e diventava quindi la parte importante dello spettacolo, e così è venuto fuori quello che poi è stato chiamato teatro canzone. E mi ricordo una dei primi spettacoli a Trieste che mi chiamò e mi disse: non c'è molta gente questa sera. E ho detto: è certo, perché non sanno ancora chi sei, adesso bisogna aspettare un attimo. E poi in effetti così fu. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo. Nasce fragile e incerto, poi quando ha la ragione si nutre di soprusi e di violenza, e vive e non sa il perché della sua esistenza. È così compromesso con ogni compromesso, che oramai più nulla ne sente né vede, e il compromesso è l'unica sua fede. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo, è un uomo. Guadagno meno, fa niente. Diventerà meno forte la mia popolarità, pazienza. Però faccio esattamente quello che mi piace e do un rapporto col pubblico che è straordinario. Un bel privilegio, perché andare sul palcoscenico a dire quello che uno pensa mi sembra che sia una cosa abbastanza unica. Generalmente mi ricordo la domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile. Ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni. Lui era un geometrico assoluto, cioè impostava una commedia con dentro proprio, era Prassitele messo dentro in un ritmo straordinario. Leggevo subito questa macchina che si riproduceva, che si muoveva, aveva una dinamica, tendeva a squarciare, nello stesso a ricomporre, usciva dalla dimensione, era verticale, era prospettica, era veramente eccezionale. Racconta alla gente ciò che la gente vorrebbe dire ma non è ancora in grado di dirlo, e allora in questo senso c'è questa sua capacità di evocare, di sollecitare sentimenti da parte del pubblico, stavo per dire del popolo, del pubblico, ma è un pubblico che già in sé un popolo, il popolo di Gaber. Nel dubbio mi compro una moto. Un popolo dal quale Gaber prendeva ispirazione. Il suo tempo libero era dedicato alla ricerca di nuovi spunti, nuove idee, temi che spesso discuteva con la gente, nei vari incontri, ma anche in casa o con gli amici. Diventavano oggetto del suo lavoro e spunto per i suoi spettacoli, come ci raccontano Dario Fo e Sandro Luporini, amico e coautore di Gaber. Far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile. Ma che senso ha se io sento in me la misura della mia inutilità? Noi prima di affrontare uno spettacolo, perché poi dal 70 in poi abbiamo fatto diversi spettacoli, non una canzoncina e basta, ma diversi spettacoli, prima di affrontarne uno noi parlavamo, ma ti posso dire anche 20 giorni. Ed era un parlare sulle impressioni che avevamo, sia sentimentali, sia intime, sia esterne, sulla visione del mondo. ho visto un uomo matto. È impressionante come possa fare effetto un uomo solo, dimenticato, abbandonato dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello. Un uomo, lo sguardo fisso, un uomo solo alla ricerca di se stesso, un uomo a pezzi, così impaurito, così bloccato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che abbiamo gli strumenti per poterci realizzare con un titolo di studio. Si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente, il porto d'armi, la domenica allo stadio. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani. E noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali? Noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, sì, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani. E noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali? Noi possiamo fare tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo sani. Mix 24, storie di star. Con Sandro Luporini, Giorgio Gaber scrive uno dei capolavori assoluti del teatro della canzone, Il Dilemma. Brano che vi facciamo ascoltare, seguito da un'intervista proprio su questo testo straordinario. E così, a un certo punto, abbiamo liberato anche l'amore. Finalmente più nessuna repressione, ognuno fa quello che vuole. Anzi, per alcune coppie l'infedeltà è una specie di garanzia di modernità. E con questa smania di dare ascolto ai brividini del cuore, si disfano allegramente le coppie e gli amori nascono come funghi, in una strana euforia di cui il fallimento sembra la normale conclusione. Ma non ci è mai venuto in mente che è proprio nella fedeltà che si potrebbe trovare una risposta diversa. No, non la fedeltà alle istituzioni, neanche alle regole del buon senso antico, ma la fedeltà a noi stessi. In una spiaggia poco serena andavano la vasta di un dilemma. L'uomo era forse più audace, più stupido e conquistatore. La donna aveva perdonato, non senza dolore. Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare. Se aveva o non aveva senso il loro amore. Stiamo ascoltando una canzone tua e di Sandro Luporini del 1981, Il Dilemma, dello spettacolo Anni Affollati. Da dove viene? Da quale sentimento è nata? Da quale sguardo sulla realtà? Ma sì, non è mai eccessivamente chiaro come nascono le cose. Forse il desiderio di raccontare una storia, o forse come una reazione a un atteggiamento dell'epoca. Ecco, io direi che spesso noi abbiamo questo desiderio di intervento, non tanto l'idea di fare una bella canzone, ma una canzone che in quel momento abbia un senso, un significato. Veniamo da tutti gli anni 70, che in qualche modo rappresentano un periodo di grande libertà sentimentale. Ecco, quindi c'è una specie di rifiuto della coppia o della famiglia che allora si chiamava piccolo borghese, forse si chiama ancora ora. Quel tipo di famiglia nella quale in qualche modo siamo cresciuti tutti, no? Aveva sicuramente dei limiti e rischiava di diventare oppressiva, poco ariosa e comunque certamente con degli aspetti formali un po' ipocriti, ecco, questo sicuramente. Quindi a quel punto reazione, ecco, avviene quasi sempre, no? Che le reazioni siano, come dire, un cambiamento esagerato, una trasgressione totale, ecco, non si riesce mai a tenere quello che c'è di buono nelle cose, no? E quindi si va dall'altra parte, una specie di gioco al rimbalzo, o di qua o di là, ecco. In quel caso questa specie di infatuazione dell'amore, ecco, questa specie di trionfo dell'amore, questo continuare a innamorarsi, secondo noi sottointendeva anche forse una minor capacità d'amare. In un giorno di primavera, quando lei non lo guardava, lui rincorse lo sguardo di una fanciulla nuova. E ancora oggi non si sa se era innocente come un animale o se era come instupidito dalla vanità. Difficoltà ad approfondire dei rapporti. Allora, l'aspetto è un po' infantile, no? Cioè, è chiaro che il momento dell'innamoramento, dell'inizio delle cose, è esaltante, ognuno ha una serie di gratificazioni sul piano dell'accettazione, si scambia evidentemente cose anche significative, no? Per carità, ma poi questo tipo, questo aspetto così entusiasmante finisce e quindi in qualche modo la coppia si ritrova a una normalità più faticosa, evidentemente più impegnativa, anche più, come dire, che richiede più responsabilità. E quindi a questo punto la capacità di andare a fondo in un rapporto e quindi in una sorta di trasformazione più profonda di questo progetto, un grande progetto che può essere anche quello di fare dei figli, quindi un progetto non certo indifferente, naturalmente richiede fatica, ecco, e si preferisce continuare a innamorarsi per non arrivare poi al nocciolo della questione, che è quella di prendere un impegno serio con l'altra persona e cercare di portarlo più in là possibile, non, per carità, non è come dice tutta la vita, deve essere, no, ma in qualche modo prendersi le proprie responsabilità. Questa voglia di non lasciarsi è difficile da giudicare, non si sa se è una cosa vecchia o se fa piacere. Ai momenti di abbandono alternavano le fatiche con la gran tenacia che è propria delle cose antiche. E questo è il sunto di questa storia, peraltro senza importanza, che si potrebbe chiamare appunto resistenza. Forse il ricordo di quel maggio gli insegnò anche nel fallire il senso del rigore, il culto del coraggio. E rifiutarono nitidamente le nostre idee di libertà in amore. A questa scelta non si seppero adattare. Non so se dire a questa nostra scelta o questa nostra nuova sorte. So soltanto che loro si diedero la morte. Nella canzone usate la parola resistenza su questo. Sì, ecco, la parola resistenza è proprio il desiderio di resistere a questo. Mi pare che si dica nella presentazione brividini, ecco, questa sensazione secondo me del tutto infantile, questo desiderio di essere accettati continuamente, questo bisogno di conferme, questo bisogno in qualche modo di esaltarsi nell'innamoramento, e quando questo cade dice vabbè dividiamoci, facciamo un'altra famiglia, 5, 6, 10, benissimo. A quel punto lì uno dice ma ecco, era questa la domanda della canzone, ma siamo ancora capaci di amare o invece facciamo finta proprio in questo trionfo dell'amore di avere grandi capacità ma non ne abbiamo? Ecco, questa è la domanda della canzone. È dato per scontato che si sa amare, è dato per scontato che sono chiare le ragioni per cui si è sposati, ma è vero che sono chiare. No, ma è dato per scontato cos'è l'amore, che è, capito, cos'è la cultura, cos'è la democrazia, sono date per scontate un sacco di cose che in realtà non sono assolutamente scontate. In una spiaggia poco serena camminavano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo era forse più audace, più stupido e conquistatore, la donna aveva perdonato, non senza dolore. Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare, se aveva o non aveva senso il loro amore. In una casa a picco sul mare vivevano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo è un animale quieto se vive nella sua tana, la donna non si sa se ingannevole o divina. Il dilemma rappresenta l'equilibrio delle forze in campo, perché l'amore e il litigio sono le forme del nostro tempo. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale e ricorrente, perché morire fa morire è un'antica usanza che suole aver la gente. Lui parlava quasi sempre di speranza e di paura, come l'essenza della sua immagine futura, e coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei l'ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già. Anche lui, curiosamente, come tutti era nato da un ventre, ma purtroppo non se lo ricorda o non lo sa. In un giorno di primavera, mentre lei non lo guardava, lui rincorse lo sguardo di una fanciulla nuova. E ancora oggi non si sa se era innocente come un animale o se era come instupidito dalla vanità. Ma stranamente lei si chiese se non fosse un'altra volta il caso di amare, di restar fedele al proprio sposo. Il loro amore moriva come quello di tutti, con le parole che ognuno sa a memoria. Sapevan piangere e soffrire, ma senza dar la colpa all'epoca o alla storia. Questa voglia di non lasciarsi è difficile da giudicare, non si sa se è una cosa vecchia o se fa piacere. Ai momenti di abbandono alternavano le fatiche con la gran tenacia che è propria delle cose antiche. E questo il sunto di questa storia, peraltro senza importanza, che si potrebbe chiamare appunto resistenza. Forse il ricordo di quel maggio insegnò anche nel fallire il senso del rigore, il culto del coraggio, e rifiutarono decisamente le nostre idee di libertà in amore, A questa scelta non si seppe però adattare. Non so se dire a questa nostra scelta o a questa nostra nuova sorte. So soltanto che loro si diedero la morte. Il loro amore moriva come quello di tutti, non per una cosa astratta come la famiglia. Loro scelsero la morte per una cosa vera come la famiglia. Io ci vorrei vedere più chiaro, rivisitare il loro percorso, le coraggiose battaglie che avevano vinto e perso. Vorrei riuscire a penetrare nel mistero di un uomo e una donna, nell'immenso labirinto di quel dilemma. Forse quel gesto disperato potrebbe anche rivelare come il segno di qualcosa che stiamo per capire. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale, ricorrente, perché morire, far morire è un'antica usanza che suole aver la gente.